Atterro a Newcastle e piove. Niente, non riuscirò a sfatare il luogo comune per eccellenza sull'Inghilterra. Sono le 12.30 di sabato mattina, l'aeroporto è piccolo ed è deserto. Io sono qui, di Matteo Caccia. Ho scoperto una roba orribile. Sono le 16.08, questa è la di 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Però ho scoperto una cosa veramente orribile. E me l'ha detto lei. Mia mamma non solo ascolta Radio Monte Carlo, ma interviene in diretta. Ha telefonato in diretta a Radio Monte Carlo per dire non so che cosa. E me l'ha detto lei. Spero non in orario, no? Spero non dalle 16 alle 16.45. Ma anzi, spero non durante tutta la programmazione. Ciao mamma. Ieri vi ho raccontato che sono stato a Newcastle questo fine settimana. E adesso vi racconterò che cosa è accaduto a Newcastle. Tra le cose più interessanti che sono accadute è stato incontrare degli italiani che vivono là. Uno, in particolar modo, che è un ragazzo con cui ho chiacchierato una sera in un pub. Lui vive lì da un anno, fa un lavoro che c'entra con la finanza e con l'economia, ha più o meno 30 anni. Lui è una di quelle persone che gira abitualmente, cioè che è uscito dall'Italia quando si è laureato e che ha in mente di tornarci più o meno, forse sì, forse no, insomma diciamo non ha fretta di tornare in questo paese, si trova bene, poi chiaramente tutte le cose, soprattutto tutte le cose come stare lontano dal proprio paese ha dei pro e dei contro. La cosa però che mi ha detto e che mi ha fatto specie è stata, guarda, vivere lontano dall'Italia è come vivere con un'amputazione, cioè è come vivere senza una parte del corpo. Con tutto quello che ciò significa, cioè lui mi parlava proprio, evidentemente era preparato sull'argomento. Sai la questione dell'arto fantasma, che dicono che quando ti manca un arto tu comunque lo senti ancora, cioè se non hai più una mano senti le dita che si muovono e senti prudere, come se quell'arto ce l'avessi ancora. Dice guarda, è esattamente la stessa cosa, cioè quando ti svegli la mattina e cammini per la strada, anche se sei nel nord Europa o se sei in Sud America, lui è stato in Australia mi pare, hai comunque la sensazione di essere nel tuo paese. Poi ti guardi intorno e vedi che ci sono le scritte in inglese o le persone hanno facce diverse dagli italiani. Però è proprio come vivere senza un arto, cioè come vivere con una piccola amputazione. Quindi, che so, ti manca un braccio e cammini, vivi la tua vita più o meno normale, fai le cose con l'altra mano. Però senti che ti manca un piccolo pezzo del tuo corpo. E proprio lui mi diceva, guarda, è più una questione fisica che non psicologica. È proprio come se ti mancasse un pezzo. Questa cosa mi ha fatto molto effetto. Oggi do il numero come al solito, lo do però proprio perché parlo di questo paese, di questa città che è Newcastle, ma in particolar modo delle persone che vivono fuori da questo paese, e so che ce ne sono perché ho fatto un appello su Facebook e hanno già risposto e quindi già le abbiamo anche contattate, però oggi vorrei sentire delle persone che magari ascoltano in streaming questa trasmissione, quindi probabilmente adesso avranno un ritardo, giusto? Perché di solito hanno un ritardo di 5... ascoltano in streaming questa trasmissione, questo più o meno è il ritardo che hanno loro che la stanno sentendo, ecco, che si facciano vive. Ovunque siate in giro per il mondo, se avete voglia di intervenire, 800024 non si può, neanche più 39 80024 perché i numeri verdi non hanno il suffisso, non hanno il prefisso internazionale, quindi c'è il numero dell'SMS, mandate un messaggio e vi richiamiamo, è più 39 349 238 6666 349 238 6666 perché è proprio di questa roba qua che vorrei parlare con le persone che vivono in questo momento e che sono fuori dall'Italia, no? Il fatto che vai in un posto per cercare di capire chi sei e di fare quello che vuoi, però ti manca comunque una parte di quello che sei, come se ti mancasse un arto. Più 39 349 238 6666. Questo è quello che più o meno è accaduto in diretta questo fine settimana. Atterro a Newcastle e piove. Niente, non ce la faccio. Non riuscirò mai a sfatare il luogo comune per eccellenza sull'Inghilterra. Sono le 12.30 di sabato mattina. L'aeroporto è piccolo e deserto. La prima scritta che appare sulla parete appena sceso dall'aereo è North East, Passionate People. Lì parte subito il paragone con il mio Nord-Est, quello italiano. E penso che forse non è una definizione sbagliata anche per l'Italia, no? Anche i veneti, anche i friulani sono gente passionale. Poi però penso che in realtà vale anche per gli emiliani, ad esempio, per i toscani, per gli umbri, valdostani, romagnoli, sardi, insomma, capisco lì che anche a Newcastle il marketing ha già fatto i suoi danni. La metropolitana parte ad una rampa di scale dall'uscita dell'aeroporto. In 8 fermate sono nel centro della città. Mentre scendo rifletto sul fatto che Newcastle ha poco più di 200.000 abitanti e ha 2 linee di metropolitana, come se Bologna o Brescia avessero una metro. Arriva in centro e chiede la direzione per il fiume. Ho prenotato un albergo lungo il Tyne, il fiume che attraversa la città. Anzi, in realtà che la delimitava, visto che il nome completo della città è Newcastle upon Tyne. Al punto che la mia guida mi dice che quelli che vivono di qua dal fiume sono molto razzisti nei confronti di quelli che vivono al di là del fiume. Questa però è la solita storia. Anche Romentino e Gagliate hanno una rivalità che dura dai tempi dei Romani e in mezzo c'hanno solo il cavalcavia dell'autostrada. Lascio la valigia in albergo ed esco. Ci sono 7 ponti lungo il fiume e l'ultimo che è stato costruito è del 2001. Si chiama Millennium Bridge, anche se tutti lo chiamano l'occhio. Perché quando la passerella a forma di mezzaluna si solleva per far passare le navi e raggiungere l'arcata superiore, appaiono come due palpebre che si aprono e che si chiudono. Sono le 2 e mi è venuta fame, anche perché per me sono le 3. Entro in un pub dove nessuno sta mangiando, tutti stanno solo bevendo birra. Ma mi servono un cheeseburger con bacon e maionese, ed è squisito. Ecco, ora mi sento molto meglio. La città mi pare già più accogliente. Ha smesso di piovere e le strade sono piene di gente. Giovani soprattutto. E sono vestiti come se fosse carnevale. Ma non è carnevale e loro non sono nemmeno vestiti in costume. È che proprio si conciano in questo modo. Gonne fucsia, magliette sgargianti, capelli colorati, sono soprattutto le ragazze che mi stupiscono. I ragazzi sono per lo più vestiti in maniera casuale, con jeans e magliette di squadre di calcio. Ma le ragazze sembrano vestite come se si fossero messe d'accordo che oggi valeva tutto. Almeno non è la solita sfilata di jeans a vita bassa, scarpe col tacco e giubbottini attillati. Attraverso un centro commerciale enorme, che non sembra nemmeno un centro commerciale, perché è all'interno di edifici apparentemente antichi, tutti collegati tra loro. Si entra a nord della città e si esce a sud dopo circa 20 minuti di passeggiata. E infatti quando esco ha ripreso a piovere e fa più freddo. Me ne accorgo solo io però, perché la gente in giro continua a camminare per le strade in maniche corte e infradito sotto l'acqua. Sarà il rugby, sarà la tradizione battagliera, ma questi sembrano fregarsene che qui sia praticamente inverno. Raggiungo il teatro dell'opera, che è una specie di brucone gigante a 3 gobbe tutto in cristallo. Le maschere all'ingresso sono molto cortesi, come tutti quelli che ho incontrato, peraltro. Mi mostrano la sala più grande, perché nelle altre ci stanno provando gli spettacoli. Mark si chiama il ragazzo che mi spiega tutto. Dice che il teatro è stato costruito di recente, che la sala più grande tiene 800 posti e che una settimana fa qui ci ha suonato Sting, che è di Newcastle, ma che non è così amato, forse proprio perché da qui se n'è andato un bel po' di anni fa. Poi mi chiede incuriosito che cosa ci faccia a Newcastle e si stupisce quando gli dico che passo qui il fine settimana per visitarla. Lui mi invita questa sera a bere una birra con un paio di amici. Io ammetto il fatto che sono astemio e accetto volentieri. Appuntamento davanti al ponte a forma di occhio per le 7. Perché la serata qui inizia alle 7. Ma non la cena, che comunque manco mia nonna mangia alle 7 di sera. No, dico proprio la serata. Inizia alle 7 se non prima. Io mi faccio una doccia e una dormita in albergo e alle 7 sono davanti al ponte. Mark arriva da solo, che i suoi amici li incontriamo in giro. Lui ha 24 anni, studia ingegneria e lavora in teatro per pagarsi l'affitto. Gli chiedo dove mangiamo, lui mi guarda stupito. Mi dice che se proprio ho fame possiamo mangiare un pezzo di pizza al taglio, ma che altrimenti andiamo in qualche pub. Io effettivamente non ho fame, perché sono le 7 e alle 7 non mi viene ancora fame, ma so che arriverà, e quindi mi prendo un trancio di margherita al gusto di sapone. Gli chiedo se non mangia, lui mi dice che ha già mangiato qualcosa alle 5, che loro non sono come noi, che viviamo per mangiare. Loro mangiano per vivere. Io sorrido, anche se mi sembra una vaccata, e mi preparo alla serata, e a come spiegherò a Mark che non bevo birra. Usciamo dalla pizzeria e per le strade c'è un delirio, ma intendo un delirio vero. È come se avessero appena chiuso un enorme locale in cui si teneva una festa di fine anno, in costume. E tutti stanno cercando altri posti per proseguire la serata. Si muovono a gruppi, gruppi di ragazze, gruppi di ragazzi, gruppi di uomini e di donne, tutti grosso modo ubriachi. Domando a Mark che cosa ci sia stasera e lui mi guarda con aria smarrita. Io indico il casino che c'è per strada e lui mi dice «Ah no, ma qui è sempre così». Di sabato sera, intendi? No, sempre. Il lunedì c'è la promozione una sterlina per una pinta di birra, il martedì gli under 25 pagano meno, il mercoledì le donne bevono gratis, il giovedì non ricordo più e poi arriva il fine settimana. Sono solo le 8:30 e le ragazze barcollano e cadono dai tacchi. I ragazzi cantano canzoni da stadio, un tizio afferra un cono di gomma di quelli per la segnaletica stradale e lo usa come megafono per urlare non so cosa. Ci infiliamo in un vicolo ed entriamo in un pub che si chiama Old George. E infatti sull'insegna c'è San Giorgio che uccide il drago, anche se ancora non mi ricordo il perché. Mark mi offre una Guinness e io decido che non gli racconterò della mia insofferenza per gli alcolici. Ne berrò un po' e poi farò finta di niente, perché tanto qui nessuno sembra curarsi degli altri, di niente e di nessuno. Siamo seduti sulla parte asciutta di una panchina in pietra. Si raggiunge una ragazzona traballante, su due sandali con un tacco altissimo. È alta e rotonda. Ha una gonnellina leggera e una canottiera scollata, mentre io per inciso porto un giubbotto impermeabile sopra un maglione di lana. Mi chiede se può sedersi, le dico di sì, però che è bagnata. E allora bofonchia un «non c'è problema». Si solleva la gonna e appoggia le sue cosce da 20 kg l'una sulla pietra bagnata e gelida, mentre ovviamente si beve una birra. Durante la serata incontriamo tre o quattro amici di Mark. Mi dicono cose che spesso non capisco, un po' per via della musica e un po' per l'inglese troppo compresso. Dopo il quarto pub saluto tutti e torno verso l'albergo, mentre le persone per le strade sembrano eccitate per un evento che non c'è e che quindi, ormai è chiaro, si creano loro per poterlo festeggiare. Vado a letto a mezzanotte, ma mi sembra che siano già le 5 del mattino. Dormo un sonno senza sogni e quando apro gli occhi sta piovendo. Le persone che ti capitano di fianco in aereo decidono le sorti del tuo viaggio. Occupo il posto vicino al corridoio per potermi alzare se e quando mi va. Nel posto in mezzo si siede un tizio che potrebbe avere 60 anni o 40 portati molto male. Ha i capelli radi e biondi, è magro e con la barba di due giorni. Sembra molto cortese, perché sorride, e sussurra qualcosa che non capisco quando mi tocca un gomito o il ginocchio. Poi passa il carrello con la roba da bere e lui chiede una birra. Ne versa un po' nel bicchiere di plastica, però il bicchiere è rotto e sbrodola addosso a lui e a me. Sorrido, ma mi girano terribilmente le palle. Se ne fa dare un'altra, ovviamente non prima di averla bevuta, però direttamente dalla lattina, la sua. Dopo qualche minuto mi chiede di farlo passare. Mi alzo e lui va in bagno. Raggiunge gli assistenti di volo in coda, torna al posto con un'altra birra e dopo che l'ha bevuta, lo perdo. L'ultima mezz'ora di volo la passa in uno stato di dormiveglia inquieto, in cui si regge la testa con una mano, mentre l'altra se la passa sulla faccia e tra i capelli. Se non fosse che dorme, sembrerebbe pensare a qualcosa che lo preoccupa, o che lo fa soffrire di qualche dolore profondo. Ogni tanto si riprende, dice sorry così a caso, e tormenta un piccolo sacchetto di plastica, in cui tiene qualcosa che non capisco cosa sia. Poi, quando stiamo praticamente atterrando, appoggia il sacchetto sulle ginocchia, stringe la mano destra in un pugno e la scaglia contro il sedile davanti a sé. Prima quasi come a ricordare un pugno, poi con una violenza assopita, trattenuta, lo fa tre o quattro volte e poi si riaddormenta. Quando atterriamo ad Amsterdam, io vado verso l'imbarco per Milano e lo vedo fermarsi al bar e ordinare una lattina di birra. È domenica 17 ottobre 2010, sono le 16:44, mi trovo all'aeroporto di Amsterdam. Di ritorno da Newcastle, verso Linate, sto aspettando il volo per Linate. Mi trovo in uno Starbucks, per cui potrei essere in realtà ovunque, però sono in questo momento in Olanda. Io sono terribilmente affascinato dal modo in cui la gente si veste per viaggiare, in particolar modo per viaggiare in aereo, che dico, non è che devi pigliare un carretto, devi fare 24 ore di viaggio. Se devi fare un viaggio lungo ne devi fare 12, però per lo più i voli sono di 2-3 ore se sono in Europa, perché ti devi mettere le infradito a metà ottobre in Olanda, oppure i sandali con le calze di spugna, perché ti devi mettere ste tute di cinghia che sembrano uscite da un telefilm di serie B degli anni 60. C'è un signore accanto a me adesso, è un signore indiano che ha piedi nudi, però è normale, è indiano, uno dice vabbè, sta a piedi nudi. Poi c'è invece una ragazza che ha sulle infradito a piedi nudi e una gonnellina. Ripeto, è il 17 di ottobre 2010, aeroporto di Amsterdam, 16:46. Leo, io ho vissuto 2 anni in Inghilterra e l'arto l'ho perso quando sono tornato in Italia. Newcastle, ancora Zeno da Milano scrive: ci sono stato un weekend per lavoro. Il venerdì mi sono imbattuto in orde di ragazzone mille rotoli, mezze biotte, ubriache e travestite come fossero a carnevale. Ho chiesto, nessuna ricorrenza particolare. Totalmente impazzite, mai visto uno spettacolo del genere. Fantastico. Ripeto, c'è una classifica, non so quale sia in base a quale criterio, che sostiene che Newcastle è l'ottava città più divertente del mondo. Poi a proposito della metropolitana Brescia, Mauro scrive: tra poco Brescia avrà il metro ed io sono qui. E poi scrivono dall'estero, giusto? Quindi possiamo averlo. Da Iena, Gianluca, ricercatore, a disposizione. Dopo la borsa, io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto c'è un panorama magnifico. Sullo sfondo credo sia la Death Valley, immagino. O l'Australia. No, credo sia la Death Valley. Ci sono i tipici 3 spuntoni di roccia che escono dalla pianura arsa e asciutta. C'è un cielo azzurrissimo pieno di nuvole bianche. E in primissimo piano, su queste sorte di onde di roccia rossa, c'è un uomo proprio sulla parte sinistra della foto. Non si capisce, potrebbe avere dai 20 ai 40 anni. No, 40 forse no, perché non ha rotolini sui fianchi. Direi tra i 20 e i 30. È a torso nudo, di schiena, con le braccia allargate, come ad abbracciare tutto l'orizzonte, e ha un cappello di paglia in testa. Francesco Costantini, 25 anni, a respirare questa finta aria di libertà in un viaggio che prima o poi arriverà alla fine, per poi riprecipitare nella solita routine, ma con tantissime immagini nel cuore. America, Monument Valley, io sono qui. Monument Valley, non è la stessa roba? No, non è la stessa roba, se no si chiamerebbe Death Valley, giusto? Volevo non dirlo, ma lo devo dire. Abbiamo raccontato questa foto oltre perché è molto bella, ma perché quando l'abbiamo ricevuta sul profilo, che è Matteo Caccio, io sono qui, Vittoria Mussini ha detto: questa la facciamo sicuramente perché lui ha una bellissima schiena. Vittoria, che oggi è su una giacca broccata che manco nella locandiera di Goldoni si era vista probabilmente negli ultimi 20 anni. Però insomma, questo diciamo un messaggio un po' per lei e per tutte le donne all'ascolto, che se volete vedere una bella schiena andate sul profilo Facebook, ma soprattutto sul sito di Radio 24, alla pagina Io sono qui. Sono arrivati altri messaggi di persone che ci ascoltano in streaming dall'estero, perché molti ascoltano in podcast per via dei fusi orari. E invece c'è qualcuno che è lì che ascolta in streaming, spiega giustamente Paulino che cos'è lo streaming. Lo streaming è quello strumento grazie al quale tramite internet si può ascoltare la radio dal vivo. Sì! Giusto? Streaming che arriva da stream, che è fiume, che è ruscello, giusto? Da cui stream of consciousness. Fermatevi prima, altrimenti non ne esco più. Sono le 16.36, questa era di 24 e abbiamo un sacco di gente che ci ascolta dall'estero, in particolar modo Valeria, che purtroppo non può partecipare, ma che mi ha scritto sul profilo Facebook. Mi dice: io ho vissuto finora a Berlino, Londra e New York. Sono tornata qui da poco, stanca di cercare uno stage non pagato nel cultural management in Italia. In 2 settimane qui ho trovato casa e lavoro, cosa che non sono riuscita nei 3 mesi estivi nel bel paese. Bel paese è proprio una definizione che detesto. Non perché non sia un bel paese, ma perché è a metà tra l'ironico e il cinico. Trovo che qui ci sia più serietà, più tranquillità e non mancano i mezzi di divertimento, così come l'accesso alla cultura. In Italia invece ogni cosa per carattere culturale inscindibile è sempre portata all'esasperazione e alla difficoltà. Ho pensato di meditare di più e di non sentirmi una futura eterna promessa. C'è un po' di risentimento nelle parole di Valeria, però credo che sia un po' di risentimento di tutte le persone che vanno via da qua. Un po' perché appunto vorrebbero forse starci e non possono farlo perché vogliono cercare qualcosa di meglio altrove. Dall'Italia mi manca, a Valeria manca, andare allo stadio Romeo Menti a tifare Vicenza Calcio, perché seguirlo in streaming è un'agonia asettica. 2, la mia pizzeria preferita. 3, il mio cane. 4, i miei fratelli, tra cui uno vive a Oslo, e mia nonna. Però, tra quelli invece che siamo riusciti a contattare e che in questo momento sono all'estero, dovrebbe... Eccoli qua, non vedevo il messaggio sullo schermo. Ce ne abbiamo dall'Inghilterra, dalla Scozia, dalla Svizzera, dalla Germania il messaggio. Questi abbiamo, giusto? E allora facciamo così. Andiamo a Londra da Nunzia. Pronto, Nunzia? Ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Bene. Super, Nunzia. Cosa c'è? Ti sento un po' giù. Perché sto cercando lavoro. non può essere tutto perfetto. Che lavoro stai cercando lì? Qui l'unica cosa che si quando si fa è Ho capito, scusami, cameriere, ok, riusciresti a stare ferma in un posto in cui ti sentiamo meglio? Che detto così non vuol dire niente per te. Guarda, sono entrata dentro un caffè apposta. Ah, ok, ok. Giro, quindi... Da quant'è che stai a Londra, Nunzia? Sono quasi 2 mesi. Ah, quindi sei abbastanza fresca? Sì, sì, sì. Scusami. Ho fatto l'estate in Sicilia e poi sono venuta qua. Tu che, di dove sei? Siciliana di dove? Sono siciliana di Bronte, di Catania. Dove fanno i pistacchi, giusto? Bravo, bravissimo. Quante ne so? 2 ne so. Bronte e Londra, basta. Il resto non so più niente. Però hai studiato a Perugia. Che cosa hai studiato? Ho fatto scienze della comunicazione. Scienze della comunicazione. Sì, grandissima facoltà. Grandissima facoltà fuffa, vorrei dire. Sì. Ah, ok, no, siamo d'accordo su questo, no? Non studiate scienze della comunicazione. Chiunque debba decidere in questo momento, con tutto che abbiamo il nostro professore, ma però Tiziano insegna altro, non ha a che fare solo con la comunicazione. Insomma, fate una roba un pochettino più pura. Tu che cosa vorresti fare, Nunzia, a Londra, oltre alla cameriera, che immagino serva per tirare su 3 soldi? No, serve per tirare dei soldi, cioè per tirare avanti e per imparare l'inglese. No, io vorrei continuare a occuparmi del sociale, perché in Italia mi occupavo di donne vittime di violenza e mi piacerebbe continuare a farlo anche qua. Senti, e invece, però... forse è un po' presto perché sono solo 2 mesi che sei lì, ma che cosa fai per sentirti a casa quando sei lontana da casa come adesso? Provo a entrare in posti dove c'è aria italiana, lo faccio, sono 2 mesi che lo faccio. Tipo? Caffè italiani, magari ti metti a parlare con qualcuno, ma tanto è facilissimo trovare italiani a Londra, è pieno. Questo lo immaginavo. Ti giri per strada e senti parlare italiano, quindi... Nunzia, invece fai una cosa, fai un 360 intorno a te, dimmi che cos'hai intorno a te in questo momento, che cosa vedi? Ah, guarda, di fronte a me c'ho un ristorante coreano, un teatro, appena stato a forzare un curriculum per lavorare come maschera, poi ho un West End Kitchen, che non riesco a capire che cucina sia, ristorante messicano, io sono all'interno di un caffè italiano. Benissimo, del gran mangiare mi sembra. Del gran cibo. Sempre. Nunzia, senti, magari ci sentiamo più avanti quando hai trovato lavoro e ci fai sapere a che punto sei. Sì. In bocca al lupo. Ma penso di essere già a buon punto. Brava. Perché già oggi ho avuto una buona notizia, infatti non vedo l'ora di iniziare. Benissimo, in bocca al lupo Nunzia, grazie, a presto. Prefi, ciao, buona giornata, ciao. Andiamo a Gianluca, che ci ha scritto un messaggio e che quindi ci stava ascoltando in streaming. Pronto Gianluca? Pronto, ciao Matteo. Ciao, devi parlare così piano perché ti sentono tutti? No, sono da solo in ufficio. Tu sei un ricercatore, giusto? Sì, esatto. Che cosa ricerchi? Sono ricercatore in psichiatria attualmente, ricerco attivazioni cerebrali patologiche in pazienti con schizofrenia. Certo. Chiaramente, scusami, guarda, mi hai quasi tolto le parole di bocca. Perché sei nato a Iena? Ma non c'è un motivo particolare. Io quando ho finito il mio dottorato di ricerca ero ben consapevole che la ricerca è più offre migliori opportunità all'estero che in Italia e ho cercato ovunque, Italia compresa, e l'offerta migliore che ho trovato è stata qui. Quindi scusami, ho scelto di andare all'estero fondamentalmente. Ho capito, hai semplicemente scelto di fare quello che volevi ovunque fosse. Sì, esattamente. Quindi scusami, un'offerta vuol dire che ti pagano per fare il ricercatore lì? Sì, molto. Molto? Molto bene. Molto cosa vuol dire? Più di 2.000 euro netti. Bene, senti, mese, tu sei più molti incentivi. Sei in un ufficio, mi fai un 360, mi dici cosa c'è intorno a te in questo momento? Allora, intorno a me ci sono 8 Macintosh, di fronte a me ce ne sono 2 molto grosse, immagini di cervello. 8. E poi dalla finestra io vedo il centro della città e di fianco proprio c'è un piccolo ruscello, perché Iena è una città molto piccola e verde. Senti Gianluca, ci scatti una foto e me la mandi sul profilo Facebook, Matteo Caccia, io sono qui. Sì, volentieri. Grazie mille Gianluca, in bocca al lupo. Va bene. Ciao, alla prossima. Ciao, grazie mille. Andiamo a Ginevra da Lorenza, che invece abbiamo contattato noi. Pronto Lorenza? Cioè, lei ci ha scritto, non l'abbiamo contattata. Ciao, come stai? Bene, tu? Me la cavo. Che cosa stai facendo Lorenza a Ginevra? A Ginevra lavoro nella biblioteca dell'Istituto di Ricerca Nucleare. Ah. Europeo. Certo, e come ci sei finita a Ginevra? A Ginevra per motivi personali e poi ho cercato come dire fatti tuoi e non chiedermi altro e poi hai trovato un lavoro anche ragioni sentimentali. Beh, immaginavo ci si sposta per due motivi, per lavoro e per amore, giusto? Sì, mi sono sposata sia per lavoro che per amore in questi ultimi anni, adesso sono qua in realtà per entrambe le cose. Senti, ma quindi sei quella roba lì dell'acceleratore di particelle? Esatto. Sei proprio lì? Sì, sì. Cioè quello che rischiava di fare implodere il mondo? Questa è una storia che si racconta, ma non è poi così vera. Ah, ok. Senti, tu quanti anni hai, Lorenza? 31. Senti, da quanto sei lì? Qui da 8 mesi. Ah, ok. Però tu mi sembra di capire sei fidanzato o sposata lì? Sì. Quindi tu non hai il problema di sentirti a casa, perché di fatto te la sei creata lì? Sì, poi diciamo che soprattutto, a parte a Ginevra, ma qui al CERN in realtà ci sono tantissimi italiani, quindi è difficile non sentirsi a casa molto spesso. Senti, ma tu cosa fai in una tua giornata tipo lì nella biblioteca del CERN? Passo un po' di tempo nel mio ufficio come adesso e lavoro catalogando libri e articoli per chi studia. Uh-huh. E parte della giornata la passo al pubblico, con il pubblico in biblioteca, nella sala di lettura. E com'è Ginevra? Ginevra è strana, molto internazionale, con poca personalità sua, direi. Una noia, mi sembra di capire, da queste tre cose. No, l'estate è molto carina, l'inverno però è grigia e fredda. Quando è che torni in Italia, Ginevra? Non lo so. Non lo sai, va bene. Io ti abbraccio e ti faccio in bocca al lupo. Previ, grazie, ciao. Mille. Ciao, andiamo in Scozia da Mirko. Pronto? Wow, come si gira oggi, eh? Pronto. Pronto, ciao Mirko. Ciao, ciao. Dove sei? Cioè, in Scozia, lo so. Sono a Stirling. Che si trova? Che si trova nel centro della Scozia, tra Edimburgo e Glasgow. E che cosa fai? Anch'io insegno e faccio ricerca, anch'io in università. Ma per che cosa? Economia, in realtà, economia ambientale. Quindi tu ascolti Radio 24, di default per no, il tuo lavoro? No, in realtà no. Vabbè, niente. Mirko, mettiamo giù immediatamente. Mirko, senti, tu quanti anni c'hai, Mirko? Io ne ho 35 adesso. E da quanto sei lì? In Scozia sono arrivato l'anno scorso, però sono partito dall'Italia nel 2003. Mi dici tu che cosa fai per sentirti a casa, visto che sei via dall'Italia da 7 anni? Oh, cosa faccio per sentirmi a casa? Ma niente di che, ogni tanto si organizzano delle cene, cose abbastanza tranquille, però non è che robe di italiano. Non ho questa esigenza, no. Ah, non hai problema a stare lontano dall'Italia? No, okay. Mi manca solo l'estate, ecco. Immagino. Mirko, mi dici che cosa c'è intorno a te, per piacere? Fai un 360 veloce. Ok, c'è il mio computer, una vista magnifica sul parcheggio del campus, dietro di me libri, vari libri, economia e anche altri tipi di libri, e basta, c'è il mio nuovo ufficio, perché sono appena entrato, quindi non tutto è un tuo ordine. Tutto mio. Ragazzi, immagino. Andate a studiare all'estero, che oltre a un buono stipendio avete anche un ufficio tutto vostro. Grazie, Claudio. Ciao, alla prossima. Ciao, Mirko, non Claudio. Mirko, scusami, Mirko, perdonami, avevo scritto niente, Claudio qua davanti. Ciao Mirko, buona ciao, giornata. Ciao. Abbiamo... No, non ce l'abbiamo. No, ma c'era Alberto da Parigi. Niente, Alberto, ci sentiamo un'altra volta. C'era un messaggio anche di Claudio che... Dov'è? Non ce l'ho più. Ciao, sono Claudio dalla Spagna, sono qui da quasi 2 anni e vi ascolto sempre. Trasferito con tutta la famiglia, comprese 2 bambine. Lavoro online vendendo vestiti quando lavoro da casa. Complimenti a tutta Radio 24, complimenti anche a te. Grazie a Paolino Corleone, a Tiziano Bonini e a Vittoria Goldoni Mussini. Noi ci sentiamo domani perché, non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?